puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui 18:36 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Il numero invece per i messaggi SMS è 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali, che sono ancora dominati da questa incredibile, caotica storia dei ricorsi sulle liste per le regionali. TG2. Caos liste, Berlusconi stasera da Napolitano, entro domani forse Consiglio dei Ministri straordinario. L'ipotesi di un disegno di legge o un decreto, il capo dello Stato preoccupato, nulla ancora di definito. Per il caso dell'immondizia in Campania, il nostro paese è condannato dalla Corte di Giustizia europea. Bertolaso, ora tutti risolti i motivi della condanna dell'Unione europea. Le immagini di della serie di onde anomale che hanno investito una nave da crociera nel Mediterraneo, morto un turista italiano, moglie e figlio salvi per miracolo, il terrore tra le 2000 persone a bordo. Invasione di topi nel palazzo del Parlamento inglese, segnalazioni continue anche in ristoranti e bar del palazzo, il dilemma dei lord. Ora come fare? Ora cosa possiamo fare? Mandare in onda Studio Aperto. Ecco il video dell'onda killer che ha travolto la nave da crociera nel Mediterraneo uccidendo due turisti. Uno è un 52enne genovese. Il muro d'acqua ha spaccato una vetrata scatenando il terrore. Tra poco Berlusconi vedrà Napolitano, poi nella notte un consiglio dei ministri straordinario per trovare una soluzione al problema delle liste escluse dalle regionali. Intanto il Popolo della Libertà è sceso in piazza a Roma contro lo scippo del voto. Uccisero Meredith perché si oppose allo stupro, ma non ci fu premeditazione. Pochi minuti fa Silvio Berlusconi ha detto la sua ufficialmente: ci sono dei pubblici ministeri, dei magistrati troppo pignoli che ci vogliono impedire di andare al voto. Dunque, dopo una giornata di silenzio, ecco la versione autentica del capo del PDL, del presidente del Consiglio: la colpa è dei magistrati. Non ci sono stati pasticci nel PDL, secondo Berlusconi, ma la colpa è dei magistrati pignoli, troppo formali. Noi abbiamo visto un'altra storia, in realtà magari saremo faziosi, non lo so. Abbiamo visto un'armata Brancaleone in azione, la russa, sentite la russa. Una cosa di questo genere non si è mai verificata nella storia della Repubblica Italiana, e se qualcuno spera o pensa che noi si possa essere acquiescenti o si possa rinunciare a tutto ciò che di legittimo si possa fare per opporci a queste decisioni, si sbaglia. Non ci rassegneremo. Alessandro Sallusti, condirettore del giornale, oggi c'è un titolo molto forte sui nemici che vorrebbero impedire il voto con la partecipazione dei candidati del PDL. Dice Sallusti: errori formali, sarebbe assurdo che non si vada a votare per 13 milioni di persone. Comunque il PDL ha fatto una figuraccia. PDL ha fatto una figuraccia, perché un grande partito che non riesce, come dire, a raccogliere come si deve 3.500 firme non fa sicuro. Furono accolte nel 94, che era preparato in 3 mesi per il partito. Esattamente. Cioè, sì. E anche nei mesi dopo. La Polverini sceglie la piazza, un migliaio di persone a Piazza Farnese a Roma. Sentito un'anticipazione da ieri sera, anche oggi alla fine il comizio si è chiuso con libertà, libertà, al voto, fateci votare. Ma un minimo di autocritica, diciamo anche pubblica, no, Mai come adesso c'è bisogno di una comunità come quella del popolo di centrodestra, che a testa bassa va avanti per la sua strada senza guardare alle tante illazioni, ai tanti insulti, alla tanta cacca che ci stanno tirando addosso. Noi andremo avanti, io andrò avanti, di questo non ne dovete dubitare. Gocce di fango su di me che non deposita hai le firme in tempo. Cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino, ma penso a te. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora qui, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato con tutta tranquillità. Io non volevo un altro capolista, sai. Tutto è partito da Alfredo Milioni, come al solito lo ricordiamo ogni sera, da Radio Padania questa mattina, la rabbia dei leghisti, elettori leghisti che ce l'hanno con il PDL per la questione delle firme che potrebbe escludere Formigoni. Sentite questo mix spettacolare. Noi siamo stufi di mantenere tutta questa gente, ma qua bisogna dare una svolta, vuol dire che la Lega deve andare da sola, mi spiace dirlo, ma deve andare da sola. Dunque, è proprio vero che dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Sembra tutta una combina contro la Lega. Purtroppo ormai questa alleanza, a parte il fatto di esserci molto stretta, purtroppo si sta trascinando in un baratro e poi ci dovremmo assumere delle responsabilità che non abbiamo. C'è questa farsa kafkiana, è veramente incredibile. Le alleanze, anch'io storco il naso, io spero nel 60% dei voti alla Lega in Lombardia. Allora, la questione del decreto legge, come avete sentito dai titoli dei telegiornali, forse stanotte, forse domani mattina, non si sa se Napolitano è d'accordo, l'opposizione per adesso dice no, non è possibile fare un decreto legge su una situazione che ormai definita, a bocce ferme, cioè scaduti i termini di presentazione delle liste. Aveva ragione Gianfranco Rotondi, mitico ministro democristiano all'attuazione del programma, il ministro più inutile che ci sia. Lui stesso si è definito un ministro che si occupa sostanzialmente di comunicazione, non di cose concrete, un ministro che deve comunicare l'andamento dell'attuazione del programma di governo, il quale pochi giorni fa ci aveva rivelato un qualcosa di molto semplice, molto banale, ma allo stesso tempo, se volete, rivelatore. Le parole e la politica. Sentite. Il grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60, sì, era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola, per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono. La formula, il brocardo, se volete, è perfettamente applicabile a quello che sta avvenendo, perché Maroni 2 giorni fa, in un'intervista al Sole 24 Ore, cosa aveva detto? Escludo un nostro decreto o comunque un provvedimento ad hoc. Si sta ragionando esattamente su questo invece, cioè su un decreto o un provvedimento ad hoc. Fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino, ma penso a te. Bisognerebbe fare un provvedimento che riapre i termini, ma nel frattempo si sono maturati dei diritti che noi non possiamo toccare, quindi escludo un provvedimento d'urgenza. Per quanto a mia conoscenza, nella mia valutazione non ci sono le condizioni. In alcuni casi sarebbe meglio stare zitti, per carità, il ministro dell'Interno dice la sua e dice il suo parere, poi succede che le cose evolvono, la situazione cambia e 2 giorni dopo il governo sta preparando quello che Maroni escludeva 2 giorni prima. Ancora non è sicuro, perché pare ci siano dei problemi da superare, problemi concreti, piccolezze magari secondo alcuni, però problemi che si presentano quando si vogliono cambiare alcune cose. Gerardo ci chiama dalla provincia di Salerno, buonasera. Buonasera. Prego, dica. Cruciani. No, stavo. Allora, rispetto a questo pasticcio delle liste, è evidente che c'è stato da un lato una eccessiva superficialità, perché io distinguerei però le due cose dal Lazio rispetto alla Lombardia, perché nel caso del Lazio lì c'è stato proprio un problema molto di una certa attività, invece nel caso della Lombardia il numero delle delle firme erano, come dire, superiori, erano circa 3.009, per una questione di un timbro rotondo o rettangolare mi sembra, come dire, un'eccessiva... No, guardi che si sbaglia Gerardo, perché non è solo un problema di timbri tondi o quadrati in Lombardia, c'è anche un problema di numero di firme. Sì, è certo, perché si partiva da 3.935 firme, poi con alcune, problema... alcune non sono state convalidate, altre sono state prese male, alcune volte non corrispondevano i documenti, insomma un pasticcio, Gerardo. Scusami. Prego, faccia pure, con chi sta parlando? Sta rispondendo un altro telefono, che sta facendo Gerardo? Pronto, no, c'era la polizia. Ho capito, ma si adegui, se sta parlando alla radio, si fermi, faccia qualcosa. Sì. O no? No, se vuole può condividere con noi la multa, poi, per carità. Insomma, no, potremmo pagarla a metà, insomma, dato che lei ci fa una cortesia a chiamarci, eccetera. Poi ci fa. L'hanno fermato, sì. o no? No, non mi hanno fermato. Che ha fatto? Ha messo il telefono, ha nascosto il telefono? Sì, l'ho nascosto, esatto. Gerardo, succede. Dunque, lei è ancora col telefono così mentre sta viaggiando? No, mi sono fermato. Così fermi. Non vogliamo far arrabbiare qualcuno lì in provincia di Salerno. Dove si trova lei? Io sulla Salerno Reggio Calabria. Vabbè, allora io dicevo che rispetto a secondo me lei non si è fermato, comunque, insomma, vabbè, facciamo finta che si sia fermato, Gerardo. Sì. Allora dicevo che è un tantino diverso, perché si è partito da 3.935 firma, ma al di là di questo problema io comunque vedo che sostanzialmente è una soluzione, tutto sommato, diciamo, va cercata comunque. Cioè, una soluzione politica, dice lei? Una soluzione politica, sì, va cercata, perché al tempo stesso la superficialità di alcuni è fuori discussione, perché non si può, come dire... Sì, ho capito, la cosa che dicono tutti, Gerardo, esatto. La ringrazio, la faccio proseguire nel suo viaggio, non è un discorso che si farà così alla fine, perché si farà così, credo, però non va bene. La questione della Lombardia è una questione molto seria, al contrario di quello che lei dice, perché insomma, possibile che il governatore della Lombardia Formigoni, con la grande forza elettorale che ha, con il grande consenso che sembra avere in Lombardia, non riesce a raccogliere il numero di firme adeguate per presentare la sua lista, o si sbagliano nel presentare la sua lista con i timbri? Mi pare una questione di sciatteria assolutamente ridicola e farsesca. Roberto da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Ma io volevo fare un ragionamento circa queste ormai tristemente famose leggi sulla presentazione delle liste, perché ho la convinzione che queste leggi siano state fatte soprattutto dai partiti più grandi per cautelarsi dalla presentazione selvaggia di un numero indefinito di liste, per cui sì, sono state pensate appositamente per essere cavillose e complicate in modo da limitare i danni. Forse però sono state pensate anche con una certa sufficienza, presumendo che poi i controlli in realtà dovessero avvenire tra partito e partito, e quindi con un tacito accordo per cui i più grandi non si sarebbero fatti le pulci l'uno con l'altro. Sì. Quest'anno mi sembra che invece i radicali soprattutto abbiano cercato, anche diciamo furbescamente, di applicare la regola come è scritta, o di darle un'interpretazione molto restrittiva. Sì, credo che sia così, Roberto, come dice lei. Diciamo, c'era un patto tra i grandi partiti nel non rompersi troppo le scatole sulla regolarità della presentazione delle firme, sulle sottoscrizioni, e a un certo punto poi salta qualcosa. Ma sa, quando si parte da una base di irregolarità e di violazioni, poi prima o poi il bubone scoppia. L'assunto poi, che italiano è tipico, è che quando c'è un problema si fa una norma, una legge, senza più delle volte preoccuparsi poi di chi la dovrà far rispettare, e della sua applicazione poi concreta. Della sua applicazione. Si fa una norma e ci si mette a posto. E in questo caso qualcuno ha voluto fare il vigile oltre diciamo il limite che era così consuetudine, e a questo punto ci troviamo di fronte a questo pasticcio. Mi stupisce anche che, soprattutto in Lombardia, la lista Formigoni abbia raccolto un numero di firme appena sufficienti, tale per cui nel momento in cui te ne bocciano anche un numero abbastanza... Sì, limitato, non ci sia una riserva. Salta tutto, cioè un partito del genere dovrà raccogliere certo, almeno il doppio. Certo. Non c'è dubbio, Roberto, lei ha perfettamente ragione. Guardi, il mio criterio, io fosse per me farei un criterio basato sui soldi. Cioè tu vuoi presentare una lista, benissimo, devi presentare una lista pagando, perché poi i soldi rappresentano spesso anche una, soldi raccolti naturalmente tra gli elettori, raccolti in un certo modo, rappresentano anche un metro del consenso che una certa lista può avere, dunque della sua rappresentatività. La ringrazio, Dario da Brescia. Sì, buonasera. Dica. Cruciani, io non avrei intenzione di mettere in discussione la regola, perché a questo punto non ne veniamo più a capo. Allora io voglio dire, c'è una regola. Ci potrebbe pensare Ghedini? Scusi? Ci potrebbe pensare Ghedini a questo punto? No, Ghedini? Ci potrebbe pensare Ghedini a trovare una soluzione, no? Ma no, perché se ogni qualvolta noi che ci troviamo a non rispettare una regola, la mettiamo in discussione o pensiamo, sì, di doverla cambiare con dei sotterfugi, non viviamo più in uno stato ordinato e democratico, ma viviamo in un paese che sta nel caos. Vabbè Dario, adesso il caos e la democrazia non è che passano attraverso l'applicazione stretta delle regole sulle norme elettorali, non esageriamo. Però certamente questa vicenda è indicativa di una serie di cose. Sì. Allora, io sono elettore di centrodestra, se penso che sarei andato a votare delle persone che si candidano a governare, ossia a prendersi una responsabilità importantissima, non il condominio di Via Ripamonti, ma la Regione Lombardia o la Regione Lazio, che queste stesse persone che si candidano per i prossimi 5 anni a dettare le regole che io dovrò seguire, va bene, come cittadino rispettoso delle regole, e che questi non fanno la cosa fondamentale per poter accedere a questo diritto, cioè per me è assurdo, è gravissimo, perché come avrebbero amministrato allora la Regione Lombardia e la Regione Lazio se non nel candidarsi al governo di queste regioni falsificano delle firme, non fanno corrispondere i documenti, si presentano in ritardo. Sì, non so se il metro. Un decreto, sì, no, un decreto, ho capito. Non so se il metro di giudizio adesso per poi verificare la affidabilità dei politici sia la questione delle firme. La ringrazio, c'è il giornale radio, un ascoltatore mi scrive, non riesco a chiamare, però vorrei segnalare che io sono obbligato a rispettare le regole, perché i partiti no? Io ho perso i contributi sulla ricerca per 30 millisecondi, che immagino siano il tempo di connessione dell'invio della domanda. Eccoci qua di nuovo in diretta, 19:19, 800 24 00 24. Abbiamo per voi uno straordinario reperto dal comizio di oggi di Renata Polverini. Intorno c'erano un migliaio di persone circa per gridare allo SCIP, alla libertà. Sapete quello che sta succedendo con la questione delle liste, ma abbiamo recuperato una cosa che va al di là di ogni immaginazione. La sentiremo tra poco, prima al TG3. Caos list, il governo pensa ad una legge o a un decreto, stasera Berlusconi ne parlerà con Napolitano, poi consiglio dei ministri straordinario. Il capo dello Stato: non c'è nulla di deciso, devono spiegarmi cos'è la soluzione politica. Bersani: inaccettabile l'intervento legislativo. Domenica gli iracheni eleggeranno il nuovo Parlamento, oggi soldati e poliziotti alle urne, raffica di attentati. Deve lasciare l'Italia chi ha chiesto la sanatoria, ma in passato ha avuto un'espulsione. Gli immigrati, informazioni contraddittorie. Omicidio nato da violenza sessuale senza premeditazione. Queste le motivazioni della sentenza che condanna Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Cantante trans con una voce straordinaria, dopo anni di rifiuti, riesce ad essere ammessa in un conservatorio. È la prima in Italia. E dopo il TG3, Sky TG24. Caos liste, PDL pronto al decreto Napolitano, mi spieghino la soluzione politica. Dura reazione di Bersani, inaccettabile un decreto legge in corso d'opera.

fango su di me. Siamo arrivati qui, mi sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30. Siete usciti e siete rientrati? Quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45? Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato, dovevo mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora a piedi, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità. Gocce di fango su di me, io non volevo un altro capolista. La Russa, non ci fermeremo, e d'altra parte è pronto un decreto legge, mentre Maroni 2 giorni fa diceva che non ci saranno provvedimenti ad hoc. Una cosa di questo genere non si è mai verificata nella storia della Repubblica Italiana, e se qualcuno spera o pensa che noi si possa essere acquiescenti o si possa rinunciare a tutto ciò che di legittimo si possa fare per opporci a queste decisioni, si sbaglia. Non ci rassegneremo. C'è di fango su di me e sul panino. Naturalmente ci sono i radicali che godono come matti in questa situazione, se la spassano alla grande, tutto ruota intorno ai loro ricorsi, a gente che si sdraia accanto ai piedi dei carabinieri e della polizia, come ci ha detto ieri un spettacolare consigliere o politico del Partito Socialista, uno che ha presentato le liste insieme all'altro radicale nel Lazio e ha fatto scoppiare il putiferio. Tanto godono che Cappato oggi è arrivato a dire: beh, allora, se dobbiamo fare una legge, annulliamo tutte le elezioni, rimandiamo tutto. Che venga presa in considerazione la denuncia della lista Bonino-Pannella sulla illegalità di tutto il procedimento elettorale. Facendo questo, non si potrebbe che constatare l'illegalità di queste elezioni e a quel punto rinviarle, non come favore fatto a una parte perché più potente, ma come restituzione di un diritto a 10 milioni di elettori lombardi. Rimasta senza lista e non... Tanto la canzone la conoscete tutti, e allora cominciamo. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non c'ho voce, e le verdi terre, le distese ardite e le risalite, e nel cielo aperto, e poi sul deserto, con un grande in alto, con un grande salto. Se siamo arrivati fino a qui ci possiamo aspettare di tutto ormai. 800 24 00 24, Andrea, provincia di Napoli, buonasera. Salve dottor Cruciani, buonasera, grazie per il tempo che ci vuole dedicare. Dica. Io sono un elettore... Lei si è dimenticato di fare una cosa, Andrea. Sì, mi dica. Andrea, lei si è dimenticato di fare una cosa. Ci pensi bene, ci pensi bene. Penso di averlo fatto. Vediamo, prosegua. Allora, che ci vuole dire? Allora, io l'ho fatto. L'ha fatto. A posto. E non diciamo niente. E non diciamo niente. Allora, io sono... Ammetto che sono elettore di centro-sinistra, però il mio non vuole essere assolutamente un comizio, un riferimento politico. Però da cittadino, io ieri sera ascoltavo anche un signore intervenuto da Siracusa, un elettore di centrodestra. Da cittadino mi sento profondamente addolorato per quello che si sta consumando negli ultimi giorni in televisione. Io sono innamorato di questo strumento e penso di essere capace anche di stabilire quello che è meglio o peggio per me. Il riferimento è obbligatorio al nostro Premier. Lui per anni ha basato la sua campagna, la sua azione politica sul denigrare l'Unione Sovietica, giustamente. Stiamo andando un po' in là, Andrea, che c'entra l'Unione Sovietica e soprattutto di cosa stiamo parlando? Della soppressione dei talk show. Sì, certo. Io da città elettrica... Andrea, però c'è una cosa che ancora lei non ha fatto bene, perché sento un ritorno. Rispetto. Ma la spenga sta radio, Andrea. È spento. No, sento un ritorno lo stesso. Vabbè, sarà la linea telefonica. Comunque, Andrea, lei è arrabbiato perché Berlusconi, attraverso il direttore generale della Rai, insomma, la maggioranza, ha soppresso i talk show. Questo è il punto. Sì, sono addolorato per questo. Addolorato. Comunque, diciamo, può essere intesa come un forte condizionamento. Ecco, ma essere addolorato, che significa poi? C'è un dolore fisico, una preoccupazione? Che cosa? Un dolore di cuore. Nel senso che di cuore, addirittura. Andiamo c'è cioè un dolore di cuore significa proprio lei se la prende in maniera particolare, particolarmente angosciato? Certamente sì, perché comunque io non mi sento toccato assolutamente in prima persona, assolutamente, per carità, però mi metto nei panni, ci mancherebbe altro. Ha votato per anni e viene trattato in questo modo. Per chi ha votato per anni? Ha votato il centrodestra. E allora che c'entra? Quelli che hanno votato il centrodestra magari sono contenti, non lo so. No, allora, faccio una sorta di ragionamento così veloce. Ecco, faccio il ragionamento ora. Visto che comunque a sinistra chi guarda trasmissioni di questo tipo è difficile strappare voti perché comunque è più politicizzato, penso che lui voglia tenersi stretti coloro che comunque potrebbero cambiare opinione. Sono più condizionabili, soprattutto. Va bene, ma a lei qual è il talk show che le mancherà di più, che già le manca? Io non più? Amo assolutamente, diciamo, Anno Zero, perché non amo assolutamente. Non so, Vespa, per esempio oggi c'è una teoria interessante, lei guarda tutto, va bene, lei guarda tutto. Ma diciamo, ci sarà una sua trasmissione preferita, però, a dire Andrea, cosa preferisce? Vespa? Preferita non proprio. Non c'è, però guardo non si vuole sbilanciare, ecco. Non mi faccia il politico, però, Andrea, mi dica, c'è qualcuno che le piace di più? Attualmente guardo con piacere Ballarò. Va bene, Andrea, grazie. Prego, grazie a lei. Angelo, provincia di Bergamo. Buonasera. Angelo, buonasera. Pronto? La sento, Angelo, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Il mio intervento era molto semplice. Io sono un elettore di centrodestra, probabilmente non andrò più a votare. Ora, le condizioni, io sono un artigiano, in varie situazioni mi si è presentata l'opportunità di partecipare ad alcune gare d'appalto fatte dalle piccole amministrazioni comunali e così via. Sì. Ora, all'interno di queste gare d'appalto, se dicono che il 4 marzo, entro mezzogiorno, io devo consegnare il mio preventivo, la mia offerta per quanto riguarda questa gara d'appalto, diventa mezzogiorno. Se le consegno a 12:05 non viene più nemmeno tenuta in considerazione, nemmeno protocollata. Ora, i nostri politici sapevano che evidentemente le elezioni ci sono il 28 marzo e avevano dei tempi ben precisi, non gliel'ha ordinato il dottore di presentarle all'ultimo giorno e all'ultimo minuto, potevano presentarle o il giorno prima o il mattino presto. Ho capito, lei fa un ragionamento che molti ascoltatori in queste ore mi hanno fatto. Il ragionamento è questo: perché quando siamo in ballo noi con la burocrazia, con gli impicci, ci bocciano magari una domanda, non ci accettano una domanda anche per un millesimo di secondo, e invece poi le stesse regole non sono valide per i politici? È così, Angelo? Evidentemente sono state le leggi dei nostri politici che si sono via via succeduti nell'arco degli anni che evidentemente l'hanno creato, perché le leggi lo sa qual è la cosa più assurda in tutto questo, Angelo? Ora, la cosa più incredibile, io non andrò a votare e non me ne frega assolutamente niente che sia Polverini e allora di cosa è arrabbiato lei? Come? Perché cosa è arrabbiato? No, perché fondamentalmente... Cioè, perché la prendono in giro, dice lei? No, io non sono arrabbiato. Sono semplicemente... voglio essere considerato un cittadino e come tale devo rispettare assolutamente le leggi. Quando io entro in Milano e pago l'Ecopass, non mi ricordo che il giorno dopo devo comunicare il codice PIN, il giorno successivo mi arriva la multa. Sì, ho capito, ma è chiaro il suo ragionamento, Angelo. Ora che evidentemente i cittadini siano tutti dei sudditi, io non lo tollero più personalmente. Ho capito. Evidentemente i nostri politici probabilmente si sentono dei patriarchi. So, sì, Angelo, ho capito. Lo sa qual è la cosa più assurda di tutto questo? È che, l'ho detto già ieri e lo ripeto con forza, i partiti ricevono un sacco di soldi di finanziamento pubblico, ma una marea di soldi di finanziamento pubblico. Pagassero delle persone, dei funzionari che si occupano dei comitati elettorali e che raccolgano le firme, saranno pure assurde, secondo me sono assurde la raccolta delle firme, i plichi, le carte, la burocrazia, ce n'è troppa, bisognerebbe cambiare, però le regole le creano gli stessi politici, una volta che le creano le applicassero, anche perché ricevono dei denari per applicarle, che sono quelli del finanziamento pubblico. Piero Stellino, buonasera. Buonasera, buonasera. Mi aiuti, caro Stellino, perché io non ne posso più di questa vicenda delle firme. Che cos'è? Una grande commedia che finirà nel nulla, oppure non bisogna stare troppo appresso a queste cose formali, bisogna risolverla nella sostanza questa vicenda? No, dunque, la prima considerazione da fare è che noi ci avviamo sempre più verso la Repubblica delle Banane e quindi siamo condannati progressivamente a diventare una Repubblica delle Banane. Perché lo si vede da questi episodi che sono capitati. Cioè, a Roma i dilettanti allo sbaraglio del Popolo della Libertà non sono nemmeno riusciti a presentare le loro liste. Perché non si sono messi d'accordo lì sulle liste, sui nomi? Non si sono messi d'accordo e poi soprattutto non hanno letto Max Weber, cioè che la politica come professione, loro sono contro i professionisti della politica, invece le democrazie si reggono sui professionisti della politica, cioè coloro i quali sanno fare politica anche dal punto di vista strettamente amministrativo. Devo dire la verità, Ostellino, che Alfredo Milioni, detto con tutto il rispetto, quello che sta andando a mangiare il panino, conosca Max Weber è fortemente in dubbio, insomma. Comunque. Vabbè, comunque allora l'ha letto male, non l'ha capito, non lo so. Appunto. No, dico. Ecco, però la cultura dominante è stata questa. Poi hanno cercato di mettere assieme le mele con le banane, cioè la Forza Italia e Alleanza Nazionale, e non è nato un partito strutturato, ma sono nate delle federazioni di baronie locali e che quindi fanno quello che vogliono. Il risultato è che il monarca, che prima era l'accentratore, il decisore definitivo, adesso è il re Travicello che conta meno. Questo a Roma. Sì. A Milano invece è successa un'altra cosa, cioè l'eccesso di burocratismo, sì. Il timbro deve essere rotondo, deve essere quadrato, deve essere esagonale, la data deve accompagnare il timbro e forse no, la firma deve accompagnare la data ma non forse il timbro e non la data e via di questo passo. Tutto questo eccesso di burocratismo ha inquinato il principio di legalità nella formazione e nella presentazione delle liste. Adesso Formigoni ha chiesto di vedere tutte le liste se sono a posto e stanno emergendo inquinamenti di ogni genere, tutte le liste hanno le loro deficienze e dovrebbero essere annullate tutte. Questo cosa significa? Che sono sbagliate le norme oppure che i politici, ho fatto prima una considerazione, queste norme però non è che sono create... Le hanno fatte i politici e poi non le sanno applicare, non le sanno leggere, ma perché non le sanno leggere? Perché il processo legislativo in Italia si conclude con una legge che non si capisce esattamente che cosa dica, perché è frutto di una mediazione e di un compromesso che dovrebbe accontentare tutti. Sì. E questo lascia un margine di discrezionalità e di arbitrarietà sia alla pubblica amministrazione, sia alla giustizia quando giudica, e sia a quelli che poi devono operare, per cui nessuno mai sa quale sia il comportamento da tenere. Lo si vede anche a livello burocratico, cioè il paese è paralizzato perché sindaci, presidenti di provincia e compagnia bella non fanno nulla nel timore di incappare nella giustizia, perché incappano in una serie di norme che sono così contraddittorie tra di loro che qualsiasi cosa uno faccia finisce in galera. Ecco, un paese può continuare a vivere così? Non riesce a presentare le liste sono fasulle tutte quante, gli stessi partiti che presentano le liste non hanno chiaro quello che dovrebbero fare. Questa è la Repubblica delle Banane. Sento, un'ultima cosa, come va a finire? I cittadini che protestano, detto questo, e io sono d'accordo con lei, i cittadini che protestano dicendo noi quando andiamo davanti a un ufficio, se arriviamo con un secondo di ritardo non ci accettano la domanda. Perché adesso ci vuole un intervento legislativo, un decreto per cambiare la situazione? Sono due cose diverse oppure hanno ragione questi? Innanzitutto sono cose diverse. I cittadini hanno perfettamente ragione, cioè nel senso che lo Stato li mortifica, li vessa, perché lo Stato non è al servizio dei cittadini, ma è esattamente l'opposto. Sono i cittadini che sono al servizio dello Stato. Resta il fatto però che il cosiddetto formalismo giuridico, cioè il rispetto delle leggi, da parte del cittadino è sacrosanto, cioè il cittadino deve rispettare le leggi. Se gli dicono di andare alle 10:30 non può arrivare alle 10:40 perché evidentemente è fuori legge. A questo punto però bisogna che le regole nei confronti del cittadino siano chiare e trasparenti, cioè che il cittadino capisca esattamente quali sono le regole a cui si deve attenere. Qui invece siamo in una posizione diversa, non si tratta di formalismo giuridico, sì. Innanzitutto perché, come ho detto, le leggi sono quelle che sono, le procedure sono quelle che sono, e quindi un formalismo abbastanza discutibile, e in secondo luogo perché è in discussione la sovranità popolare. Allora occorre che ci si metta del buon senso. Lo può fare la magistratura? Adesso già si accusa la magistratura di aver guardato solo le liste del Popolo della Libertà e non quelle degli altri partiti. Berlusconi dice che i PM sono troppo pignoli, faziosi. Esatto, esatto. Dopodiché, se qualora la giustizia desse ragione a Berlusconi, la sinistra dice che questi magistrati che hanno dato ragione a Berlusconi sono venduti al Presidente del Consiglio e che quindi è una vergogna. Comunque la si guardi, gli italiani troveranno un modo di trovare sempre l'occasione per dire che le cose non vanno. Il problema è semplicemente di senso comune, che non è buon senso, perché il buon senso è ideologico e soggettivo. Il senso comune è universalistico, cioè oggettivo, cioè riguarda la realtà empirica. Allora che cosa si può fare? Si può fare solo una cosa, che i partiti, tutti i partiti, trovino una soluzione ragionevole, che consenta di fare le elezioni in perfetta regolarità, e contemporaneamente tutti i partiti concordino nel trovare tre regole, non di più, chiarissime, che consentano ai partiti la prossima volta di presentare le liste nella maniera più chiara possibile. Vedrà che si farà la prima cosa e non la seconda. Forse la prima cosa, ma non la seconda. Ma infatti, se non facciamo la seconda, siamo la Repubblica delle Banane. grazie, buona serata. Arrivederci. Come può uno scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, torno già a volare. Tanto la canzone la conoscete tutti, e allora cominciamo. Come può uno scoglio arginare il mare? Anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non c'ho voce, e le verdi terre, le distese ardite e le risalite, e nel cielo aperto e poi sul deserto, con un grande in alto, con un grande salto. E le verdi terre, le discese ardite e le risalite. Valeria D'Arieti, buonasera. Buonasera Valeria. Eccomi, buonasera dottor Cruciani. Come sta? Abbastanza bene, grazie. Anche lei impelagata con le liste, no? Con la raccolta dei film, per carità. No, guardi, io ho avuto questa esperienza l'anno scorso. Ah, l'anno scorso. Mi sono candidata a sindaco del mio piccolo paesino. E chi gliel'ha fatto fare? Che paese è? È un paese, guardi, tra parentesi, praticamente dalla terra di Lucio Battisti, poverino, in questi giorni. È un paese che si chiama Cantalise, che è di 3.000 più o meno, per Cantalise. Inezia rispetto a quelle vicende. Beh, però insomma, 3.000 abitanti, certo, non è... Guardi, dottor Cruciani, io ho avuto questa esperienza, mi sono candidata a sindaco. Ha perso però. Mi sente? Ha perso alla fine, Valeria. No, non ho potuto partecipare alle elezioni perché la mia lista è stata annullata. Ah, problema di firme? Problema di autentica delle firme, guardi un po'. Ah. E io devo dire che all'epoca questa legge me la lessi e la trovai veramente molto interessante. Era una vera, la interpretai come una vera garanzia per la democrazia del paese. Ma l'ha capita bene la legge alla fine? Perché io ogni volta che leggo queste cose non si capisce nulla. Sì, no, la lessi, la capì. No, ma non volevo dire che lei non capiva le leggi, perché anche se uno ci si mette le interpretazioni sono tantissime. Comunque... Sì, certo, guarda, quello che emergeva era che questa autentica delle firme è un requisito sostanziale, no? Non è un requisito formale, e che determina la nullità immediata della lista. Sì. E devo dire che io lì per lì mi arrabbiai, feci ricorso, il Consiglio di Stato mi disse che comunque non potevo più partecipare, ma potevo eventualmente fare un ricorso successivo alle elezioni. Sì. Però dire la verità, poi mi resi conto che secondo me era una garanzia importante questa. Perché? Per evitare che si potessero presentare delle liste che poi in realtà non venissero realmente portate da dei cittadini. Ho capito. Quindi, Valeria, da una parte è così, dall'altra penso che ci siano dei metodi un po' più avanzati, diciamo. Perché poi sulle firme alla fine nessuno ha voglia di raccoglierle, si presentano le liste con i documenti già già prestampati, eccetera, eccetera. La linea è disturbata, Corrieti, come avete sentito. Allora ci spostiamo a Roma con Maurizio. Buonasera. Buonasera. Dica. Ma guardi, quel povero Battisti, insomma, con lo scoglio avrà il suo ben da fare, però se uno scoglio c'è, è quello anche che trovano davanti i cittadini che si vogliono fare parte della contesa. Io ho partecipato qui da Roma alla raccolta delle firme di un movimento, di una lista civica che si chiama Rete dei Cittadini, e abbiamo toccato con mano le difficoltà, e nonostante tutto quello a cui sono stati sottoposti destra e sinistra, Polverini, Bonino, eccetera, eccetera, comunque si è avuto successo, siamo stati i primi a presentare il listino, è stato approvato senza nessun tipo di problema, quindi insomma le regole, non, come diceva prima l'ascoltatore Angelo, non riguardano solo il cittadino. Maurizio, lei che lista ha presentato, mi scusi? No, io partecipo. Anche con Roma la linea è disturbata, stasera va così. Leo Ascoli Piceno. Salve Cruciani. Andiamo meglio ad Ascoli, Leo, dica. Senta, guardi, io pensavo che col pasticcio delle liste sinceramente avessimo toccato quasi il fondo. Invece mi sto accorgendo che le reazioni del PDL a quello che è successo vanno oltre, è ancora peggio. Rasentano veramente il ridicolo, a partire da Berlusconi, che non fa altro che prendersela con i magistrati, e denota un filo conduttore della politica degli ultimi anni, ovvero il disprezzo per le regole. Cioè le regole valgono per gli altri, tutto quello che riguarda la politica diventa tutto flessibile, tutto è possibile. Secondo me qualcuno nel PDL, quando si è reso conto che si avvicinava a mezzogiorno per presentare le liste, avrà pensato, ma sì, va, da mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, l'una, ma che importanza ha? Tanto, voglio dire, le regole le facciamo noi e si piegheranno a noi, perché se si ricorda, lo stesso tipo di concetto vale per il problema di Girolamo. Di Girolamo già un anno e mezzo fa andava sospesa, annullata la sua elezione perché non risultava residente all'estero. E il Senato per quel principio di casta che si porta sempre dietro, ha deciso di sospendere questa decadenza dell'incarico. Non si capisce perché. Si capisce perché, Leo, si capisce perché. Secondo me c'erano già i termini e i fatti per far decadere Di Girolamo dalla carica di senatore anche un paio di anni fa, credo che fossero, forse l'anno scorso, non ricordo esattamente, a cavallo tra il 2008 e il 2009. Il punto era un altro, che fu decisa la sospensione dell'iter, credo perché ancora non si era conclusa l'indagine sulla residenza. Era evidente a tutti che la residenza a Bruxelles era fittizia, però si decise di aspettare un qualcosa di formale, una prima sentenza o cose di questo tipo. Come al solito però in Italia poi le sentenze arrivano quando arrivano, e dunque tutto si fermò. Leo, prego, concluda. No, è veramente una cosa scandalosa. Guardi, lei chiedeva prima a un ascoltatore perché si è arrabbiato. Io sono veramente arrabbiato, perché non è possibile. Ma lei cosa vorrebbe, Leo? Cosa vorrebbe in concreto? Che fossero queste liste fossero escluse? No, guardi, gli starebbe bene, sinceramente, gli starebbe bene, perché è ora che comincino a capire che le regole valgano. Ma io quello che vorrei, Cruciani, è che semplicemente questo paese diventasse un paese normale, un paese dove le regole vengono rispettate da tutti, da chi le fa in primis, perché se no non cresciamo come paese, da un punto di vista anche di senso comune, di senso di etica verso la gente. Poi quando una persona, l'ascoltatore che chiamava prima, che faceva il furbo a nascondere il telefonino con la polizia, quello che cos'è? Quello è un malcostume. Vabbè, Leo, però non esageriamo, questo qua sarà capitato anche a lei, Leo. Sono sicuro che sarà capitato anche a lei. Macchina e viva voce, perché sì, adesso è viva voce, però sarà capitato anche a lei di telefonare. Sono d'accordo con lei. Appunto, non facciamo i maestri. Sì, ma non facciamo i maestrini su questo qua. È capitato a tutti, ed è sbagliatissimo, naturalmente, di prendere il telefonino e chiamare. È capitato anche all'ascoltatore, certo, è abbastanza bizzarro che poi si chiami in diretta una radio, magari uno chiama la moglie, la fidanzata o la figlia, insomma. Sarà d'accordo con me, Cruciani, che comunque sia poi le istituzioni, lo Stato, comunque non possa scadere in queste cose, perché diventa veramente... Guardi, lei ha detto una frase prima, una frase prima che mi è piaciuta. Alla fine sarebbe grave se Formigoni non si candidasse in Lombardia, diciamo la verità. Insomma, su questo non c'è dubbio, e sono d'accordo con quello che che diceva Ostellino, però qualcuno se lo meriterebbe forse, no? Si meriterebbe una bella esclusione, perché le cose si possono fare bene, al di là delle altre irregolarità che ci possono essere, forse le liste sono state lasciate in mano a qualcuno che le ha manipolate, lo vedremo, in altre liste ci sono irregolarità, può essere, però insomma... ci sono delle regole, paghiamo i partiti per farle rispettare, le fanno loro regole, e, insomma, no, fatele, trovate le firme. Siamo qui, 21 minuto, TG5. Liste regionali, stasera incontro Napolitano Berlusconi, Bersani, decreto inaccettabile, Gasparri, chiusa a Cavilli, infrange la Costituzione. Riciclaggio, le carte sequestrate a Di Girolamo al vaglio degli inquirenti, Bernabé, Telecom seria e solida, Schifani, serve una più incisiva lotta alla corruzione. Terremoto politico in Olanda, le amministrative, crollo dei partiti di governo, balzo di una formazione xenofoba e anti-Islam. Un muro d'acqua, poi l'inferno, drammatico video dell'onda gigante che si è abbattuta su una nave da crociera in Spagna, uccidendo un italiano e un tedesco. Un noto gallerista, Giovanni Schubert, ucciso e fatto a pezzi a Milano. Il corpo trovato in un naviglio, fermato un uomo. A Fiumicino il primo body scanner in via sperimentale per un mese. Privacy garantita, Fazio, nessun pericolo per la salute. E andiamo al TG1. Berlusconi stasera dal capo dello Stato, lo studio un provvedimento legislativo per superare il caos delle liste sospese. Preoccupazione di Napolitano, situazione fluida a Roma e Milano per i candidati alle liste, campagna elettorale in tilt. Ucciso e gettato nel naviglio a Milano noto gallerista, fermato presunto omicida, avrebbe agito per motivi di interesse. Rifiuti in campagna, l'Europa condanna l'Italia per l'emergenza degli anni scorsi. Bertolaso, ora abbiamo risolto tutto. Video dell'onda killer contro la nave da crociera, due morti, uno italiano, fenomeno molto raro nel Mediterraneo. Il liceo degli studenti modello in un istituto di Treviso, ben 165, 10 in condotta, premiato anche l'impegno sociale. Il ritorno rock di Edoardo Bennato e stasera su Rai 1 Gigi D'Alessio si racconta in TV con uno show tutto suo. E poi vorrei capire cosa ci scrivono nel decreto. Nel decreto per diciamo far riammettere le liste. Insomma, c'è qualcuno che starà lavorando, magari Ghedini. Sentiamo che succede. È una cosa anomala che non si è mai visto. Tutto è accaduto sulla verifica di alcune questioni formali e non sostanziali. Ma quali sono le e questo era Denis Verdini, uno dei coordinatori del PDL. Quali le possibili soluzioni? Ancora Sky. Rinvio oppure no del voto? E proprio su un'ipotesi di rinvio delle elezioni si è espresso con durezza, in modo contrario, il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. Io non valuto nulla finché non c'è qualcosa sul tavolo. Credo che il buon senso lo abbiamo tutti, ma chiedo un piccolo atto di umiltà e di serietà. Chiedere scusa agli italiani e ai propri elettori per i pasticci che si sono combinati. L'unica cosa che non può essere tenuta in alcuna considerazione è il rinvio delle elezioni. Se non vogliamo che questo paese finisca in burletta, ecco, manca solo che proponiamo il rinvio e poi ci siamo coperti di ridicolo. Su questo devo dire che Casini ha ragione. Rinviare le elezioni perché? Perché Alfredo Milioni va a mangiare il panino, oppure perché in Lombardia si dimenticano di alcune timbri o di alcune firme? Ma stiamo scherzando o stiamo parlando di cose serie? Allora, il rinvio delle elezioni è un'ipotesi fantascientifica. Mi stupisce che venga in mente in queste ore ai radicali che dicono: siccome è tutto irregolare, rinviamo tutto. Giuseppe da Siena, buonasera. Mi sento un po' galvanizzato dalle pieghe che sta prendendo questa campagna elettorale. Addirittura galvanizzato. Sì, sa perché? Mi riporta indietro nel tempo, molti anni fa. Un attimo, le notizie si accavallano. Sì. La Corte d'Appello di Roma accoglie il ricorso del listino Polverini. Dunque il listino Polverini ha ammesso. Listino Polverini significa sostanzialmente che la candidatura della Polverini non è più in bilico. Dunque la Polverini è candidata nel Lazio. Dopo questa decisione della Corte d'Appello di Roma. Quello che è in ballo ancora è la lista del PDL in provincia di Roma e non nel Lazio. Dunque, Corte d'Appello di Roma accoglie ricorso listino Polverini. Vabbè, dica. La cautela avanza E ricordo quando si andava a presentare le liste che non ci andava mai una persona, ma in 5-6, si aspettava fuori dal tribunale anche dalle 6 del mattino per presentare le liste. Tutto veniva controllato accuratamente perché era noto a tutti che c'era la possibilità di qualche defaillance. Se occorrevano 3.000 firme, ce n'erano sempre 4.500 sul piatto, mai 3.000 e basta. Tutto era controllato da un notaio di fiducia o vicino comunque allo schieramento che portava le sue liste. C'era, come dire, una professionalità un po' diversa, oltre al fatto che la gente non veniva mai lasciata libera di muoversi per conto suo, tutto veniva controllato. Però questo, secondo me, è strano perché è da anni che la politica non strutturata all'interno degli apparati tecnici del paese prende schiaffi sonori dalla magistratura, quindi doveva essere... Però mi scusi, anche Ostellino ha fatto questo discorso prima sulla politica, certo, non professionale, però Giuseppe, io in questo caso, nel caso di Roma per esempio, non sono troppo d'accordo, perché la persona di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, Alfredo Milioni, a proposito, cerchiamo di beccarlo prima o poi con questo telefonino, risponderà, no, al telefonino che abbiamo, l'avrà cambiato magari, non lo so. Comunque in ogni caso, Giuseppe, non è che sono Pivelli o sono persone... alle prime armi, di primo pelo certo. In politica, sono persone anche abbastanza navigate, diciamo, no? Certo, ha presentato liste per non erano quei funzionari che dormivano di notte, quelli del Partito Comunista, per prendere la prima posizione in alto a sinistra. Ma una persona sola, dottor Cruciani, una persona sola può essere pesantemente condizionata da fattori esterni a lui stesso. È per quello che non ci si mette mai uno solo, ma sempre un pool di persone di cui uno controlla l'altro, perché l'essere umano è essere umano. Sì, ho capito, quindi... in questo caso erano due e sembra pure di due correnti diverse o di due camarille diverse. Io mi sono presentato e sono anche passato alle elezioni, ma vi garantisco che quando ci sono andato io eravamo in 11. Proprio perché nessuno avesse il rischio, dovesse affrontare il rischio che ci fosse qualche problema. Però, guardi, è un problema che secondo me la politica ancora non ha affrontato seriamente, è quello di capire quanto le strutture vere di potere, che sono quelle tecniche, perché i politici contano molto poco se escono dal terreno della politica, perché se escono dal terreno della politica si scontrano con gli apparati, e gli apparati sono quelli che stanno 40 anni in un posto di lavoro. Formigoni, per esempio, accusa gli apparati, sentite. Invece, in maniera del tutto irregolare, ha accolto un ricorso dei radicali, che era del tutto improponibile, e si è messo a compiere una nuova verifica sulle nostre liste, ma prima di farlo ha consegnato per 12 ore almeno ai radicali le nostre liste, senza neppure avvisarci. Ma vi rendete conto di quello che succede? Quello non poteva fare ricorso, le liste date in mano ai radicali. Insomma, di quali regole stiamo parlando? Qui in realtà esistono delle regole che poi sono applicate e rigirate in mille modi. Formigoni adesso accusa addirittura chi doveva raccogliere le firme, cioè dire le sezioni elettorali presso il tribunale. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio? Azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite sono il cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora in alto con un grande salto. Tanto la canzone la conoscete tutti. E allora cominciamo. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non c'ho voce, e le verdi terre, le distese ardite e le risalite, e nel cielo aperto, e poi sul deserto, con un grande in alto, con un grande salto. E le risalite sono il cielo aperto. Come avete sentito, siamo arrivati allo scoglio, al mare, a Battisti, con un precedente che non vi faccio ascoltare per non deprimervi troppo. E dove andiamo? Sempre 800240024. Davide, provincia di Como, buonasera. Buonasera, buonasera Cruciani. Io volevo dire la mia più che altro sulla situazione in Lombardia, più che del Lazio, visto che sono in provincia di Como. Allora, io sono un militante della Lega e mi sono impegnato in questa campagna elettorale a raccogliere le firme per i quattro candidati della provincia di Como. E per voi non ci sono problemi? No, assolutamente. Guardi, io le ho sempre raccolte le firme negli ultimi anni a questa parte per i nostri candidati. Allora, la questione è, le regole sono chiarissime. Allora, in Lombardia il problema è sorto. Poi io negli ultimi giorni ho evitato di seguire che cosa succedeva, perché a me piagnistei dei PDL veramente mi interessano poco. Tanto andate d'amore d'accordo. Mancavano i timbri alle firme. Allora, la legge parla chiaro che le firme vanno autenticate nel comune di residenza per le persone che hanno firmato. Bisogna timbrarle, poi portarle in questura e poi vanno in regione. Allora, procedura incredibile secondo me, Sarà anche incredibile. No, no, autenticate nello stesso comune, poi trasferite in questura. Perché vanno autenticate le firme. Sì, ho capito, si vanno autenticate. Ecco, certo. Allora, tra l'altro in provincia di Como è successo che adesso c'è un casino, perché sono nate delle irregolarità nella lista di Forza Nuova, perché ha fatto firmare anche i morti. Non è la prima volta, insomma. Esatto. Allora, la questione è questa. La legge c'è. Io le voglio fare un paragone, se mi consente, calcistico. Allora, la Fiorentina 2 settimane fa è stata derubata sul campo, l'hanno ammesso tutti, un fuorigioco inesistente, ha perso. Allora? Tutti hanno criticato, l'arbitro, probabilmente quell'arbitro lì non arbitrerà più a livello internazionale, ma la partita è persa. Cioè non è che cambia il risultato della partita. Allora, dunque, l'applicazione alla questione elettorale qual è? Guardi Davide, lei però, sostenendo questa tesi, arriva alla conclusione che manco la Lega si può presentare in Lombardia, lei lo sa, no? Assolutamente, guardi, purtroppo noi se decidiamo di andare con qualcuno siamo anche responsabili di quello. Dopo, all'interno della Lega bisognerà fare delle riflessioni. Dunque, secondo lei la riflessione è che basta Formigoni? No, o sì, basta PDL, non so. Basta PDL, perché qua basta PDL addirittura. Esatto, cominciano a diventare un po' troppo in provincia di Como fra i militanti, ne cominciamo ad avere. Ma da soli non andate da nessuna parte, tranne in qualche paesino dove magari avete il 70%, insomma. Ma mandare giù Rospi, purtroppo, per un'alleanza dopo a volte a quelli che sono leghisti dagli anni 90, non è che va tanto bene. Comunque, a parte questo, allora, la legge c'è, poi a bocce ferme finite le elezioni, se tutti insieme cambiano la legge, allora un altro discorso. Ho capito, Davide, la conclusione è questa: se una Lombardia in cui non è candidato Formigoni, a lei non gliene frega niente alla fine. No, allora se fanno una leggina apposta per far candidato Formigoni io non vado a votare. Manco la Lega vota? No, non vado, non può presentarsi la Lega, non vado a votare. Non vado. No, se fanno la leggina, si può presentare la Lega, attenzione. Allora, se davanti al simbolo delle regole, ho capito, davanti al simbolo della Lega lei si tira indietro. Sì, in questo caso sì, cioè se fanno una leggina apposta a opera in corso, io non vado a votare. Va bene Davide. Bene, la missione impossibile di questa sera. Battere in Veneto Luca Zaia, cercare di superare quello che arriverà secondo, diciamo la verità, Giuseppe Bortolussi. Chissà, Gianluca Panto, candidato del Partito Nazional Veneto. Voglio l'indipendenza perché credo che il Veneto e i veneti se meritano di meglio. Per liberare le potenzialità dei veneti. Perché la mia pensione è mia da Roma, io pago i veneti. Voglio l'indipendenza per dare a mia figlia un futuro più sereno. Voglio uno Stato veneto perché tutti i giorni lavoro da veneta, perché tutti i giorni penso a un futuro da veneta, perché tutti i giorni amo questo territorio in cui vivo. Ma senti Ufia, ma te che domanderesti mai a un austriaco che un francese decide per conto suo? Ma allora perché noi altri veneti non possiamo decidere per conto nostro? Questa è una roba normale. Panto, buonasera, come sta? Buonasera, saluti a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, lei innanzitutto che parentela ha con il mitico Panto? Sono un cugino. Cugino? Quanti cugini ci sono? Prego? Quanti cugini eravate? Beh, la nostra è una famiglia numerosa, ci sono molti. Tanti, ci sono molti. Partito Nazional Veneto, l'indipendenza del Veneto, lei ci crede per davvero oppure così? Lo fa per divertimento? Noi ci crediamo veramente, è un percorso legale che abbiamo iniziato da un paio d'anni. Dunque niente carri armati, baionette, cose che abbiamo visto nel passato? No, noi scegliamo il percorso legale. Fino al 2006 questo non era possibile all'interno dello Stato Italia. In che senso non era possibile? Non era possibile perché c'era una vecchia legge che si rifaceva al codice Rocco fascista, che perseguiva tutti coloro che erano che potevano ad attentare anche democraticamente all'unità dello Stato nazionale. Poi con la legge 85-2006 consentito esprimere opinioni. Però Panto, mi scusi, con questa legge magari potevano escludere pure la Lega, che in alcuni momenti insomma in Veneto le sparava grosse sull'indipendenza, o no? Ma questo è un po' un populismo secondo noi, perché poi alla fine in questi 15 anni non è cambiato nulla, mentre noi invece abbiamo questo obiettivo principale. Senta, ma ho capito che è quello dell'indipendenza del Veneto. Sì, l'Italia è stata costretta a eliminare questa legge quando la Turchia è stata in Europa, che aveva una legge analoga, per cui fino al 2006 non era possibile, per questo non esisteva un partito indipendentista in Veneto fino alle precedenti elezioni. Senta, il simbolo com'è? Lei c'ha scritto Panto, Partito Nazional Veneto, e poi al centro che c'è? Una foglia, sembra un'edera, cos'è? Questa è una foglia di Tiglio, che è il simbolo sacro dei Veneti da 3.000 anni. Questo non lo sapevo, la foglia di Tiglio. Sì. Barisoni mi dirà qualcosa sulla foglia di Tiglio. È così, non è che mi sta dicendo una cosa così. No. Noi abbiamo eliminato, abbiamo deciso di non utilizzare il leone di San Marco. Infatti, io ricordavo il leone di San Marco, altro che foglia di Tiglio. Ci sono le motivazioni sul nostro sito internet. Vabbè, me le dica adesso. Non vogliamo affiancare un simbolo storico ad un simbolo politico, che poi è stato utilizzato anche da altri partiti, e quindi noi abbiamo sempre il nostro gonfalone di San Marco, però nella scena politica nazionalista veneta dell'indipendentismo abbiamo scelto questo nuovo simbolo. Senta Panto, voglio chiedere una cosa, ma uno dice, vabbè, per le questioni che riguardano l'autonomia, eccetera, c'è la Lega, perché uno dovrebbe votare il Partito Nazional Veneto? Vabbè che adesso la Lega non vuole più l'indipendenza, almeno a parole, però si sa che l'indipendenza è un qualcosa, insomma, no? Ed è molto semplice, nel momento in cui lei abbraccia la tesi autonomista, deve sempre chiedere a qualcun altro il permesso di essere liberi, nel senso che l'autonomia si ottiene con il 2/3 del consenso degli altri cittadini dello Stato Italia attraverso il Parlamento. Questo secondo noi è un percorso non praticabile. Perché lei non si sente libero adesso? Beh, sicuramente. Cioè lei si sente un uomo un po' in gabbia? Ci sentiamo in gabbia perché non avendo pieni poteri non siamo liberi di decidere del nostro futuro. Senta, ma io leggo qua delle cose meravigliose nel vostro sito. Voi proponete sostanzialmente l'abolizione di quasi tutte le tasse. Cioè, voi pensate che con l'indipendenza del Veneto, poi mi spiega la cosa degli osservatori internazionali col referendum, con l'indipendenza del Veneto si possono abolire tutte le tasse che ci sono, tranne una tassa, 20%. Non volete mettere una sola tassa, 20% su tutti i redditi, forse da abbassare poi al 15% e eliminare tutto il resto. Ah, quello che a voi sembra fantascienza è già attuale in alcuni stati confinanti con noi, per esempio la Slovenia, l'Austria, non so se lei lo sa. Sì, ma avranno qualche altra tassa, al di là della flat tax, diciamo, al di là della tassa, avranno qualche altra tassazione. Guardi, in Slovenia è così e in Austria è praticamente così, e questi sono i regimi cioè, tutte marche da bollo in vigore allo stato attuale. Tutte marche da bollo via, poi figuriamoci i canoni TV, radio, come fate con la Rai? Canoni TV e radio, che fate? Con la Rai possiamo riparlarne perché ci ha dato spazio, quindi penso che toglieremo. Quello sono obbligati, Toglieremo questa cosa. Comunque è un fatto semplicemente matematico: i cittadini veneti versano allo Stato Italia 70.000 milioni di euro l'anno sotto forma di pressione fiscale. Però ricevono anche qualcosa, insomma. Sì, ne ricevono circa 15. Di cui 9 qualcosa vengono bonificate alla regione, circa 6 arrivano ai comuni. Sì, lo sa perché non mi convincono mai questi discorsi fino in fondo, Panto, sì. Perché poi alla fine non è che uno può pensare di vivere in tot chilometri quadrati, intorno c'è tutto un mondo, con questo mondo bisogna avere a che fare, dunque se questo mondo non funziona intorno perché magari... Noi siamo in un libero mercato, c'è l'Europa, non ci sono più le frontiere, i passaporti e così via. Noi siamo per la taratura di stati all'interno di un range che va dai 5, 6, 7 milioni di persone, perché secondo noi sono più efficienti. Più di 6 milioni di persone, niente, non si può, c'è la Germania, la Germania. 8, questo noi siamo perfettamente tarati sulla media. Dunque, perché... secondo voi, ne so, la Germania dovrebbe essere divisa in tanti stati? Ma vede, è sufficiente che lei prenda troppo grossa, lo sviluppo del PIL pro capite nell'ultimo decennio, vedrà che ci sono stati più piccoli di noi che hanno avuto un aumento di efficienza, mentre lo Stato Italia ha iniziato a perdere efficienza fin dal 1996. Ho capito. Nel 1996 avevamo 120% del PIL come Stato Italia, adesso siamo arrivati, rispetto alla media europea, siamo arrivati a 95%. Stati più piccoli, come la Grecia, sono più efficienti. Fino alla Grecia, la Grecia, Grecia ci ha raggiunto. Beh, la Grecia insomma, non è proprio l'esempio più adatto in questo momento, caro Panto. No, guardi, è un esempio adattissimo. Beh, perché insomma... è passata dall'85. Sì. Poi è crollata, però insomma, sarà pure passata dall'85 a non so che cosa, però poi insomma sta come sta la Grecia in questo momento. Le informazioni, se lei legge i giornali americani, vedrà che. E che la Grecia è l'Eldorado. No, insomma, vedrà che lo Stato Italia è in una situazione molto simile, se non molto peggio dello Stato Grecia. Senta, Panto, vabbè, per concludere, io ho detto una missione impossibile, anche lei lo sa, che si presenta a fare così per tenere alta la bandiera del Veneto libero. Questa è la verità, perché tanto le speranze non ce ne sono. No? No, vede, noi vogliamo costruire una nuova classe dirigente veneta, perché secondo noi quella attuale, sia italiana che quella veneta, hanno fallito. Senta, Zaia, lei come lo considera così, in una battuta? Luca Zaia. Lo considero un populista che ha dei programmi a breve termine. Ah, un populista lui, e voi invece che volete l'indipendenza della cosa siete realisti? Siamo realisti perché secondo noi la situazione economica è all'ultima spiaggia. È la storia che farà questo, noi semplicemente la stiamo seguendo, l'aspettate. Non è che noi vogliamo cambiare la storia. L'aspettate, come si aspettano, no? I cadaveri che passano sul fiume. No, questo no. No, costruire una nuova classe dirigente che sia in grado di prendere le decisioni giuste in tempi molto più rapidi e più efficienti di quello che succede. Senta, ora. Ma il referendum, io leggo qua, no? Il primo obiettivo, l'indizione di un referendum per l'indipendenza del Veneto da tenersi sotto monitoraggio internazionale. Ma che bisogna fare per promuovere questo referendum? Cioè, concretamente, che bisogna fare? È una cosa impossibile, diciamo la verità. Voi lo mettete così perché vabbè, guardi, perché... quello che lei dice è impossibile, l'hanno già fatto il 15 dicembre in Catalogna, dove 110 comuni sono andati a votare, ha partecipato circa più del 30% della popolazione, d'accordo? E quest'anno o l'anno prossimo verrà fatto in Scozia, e ci possiamo arrivare benissimo anche noi, perché siamo all'interno di un movimento europeo indipendentista che sta nascendo, sta crescendo, nel giro di un paio d'anni investirà tutta l'Europa. La foglia di Tiglio al posto del leone di San Marco. Panto, grazie, buona serata. Buonasera. Stia bene. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio già volare. Tanto la canzone la conoscete tutti, e allora cominciamo. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre, io non so voce, e le verdi terre, le distese ardite e le risalite, e nel cielo aperto, e poi sul deserto, con un grande in alto, con un grande salto. Mi mancava una cosa con Gianluca Panto, che ringrazio ancora, candidato per il Veneto, Partito Nazional Veneto. Caro Panto, voi avete una canzone in dialetto, un inno in dialetto? Beh, ci sono degli inni veneti, potrei citare... No, me ne canti uno, pure lei stasera siamo canterini, qui ha sentito la Polverini che si è inventata oggi al comizio. Adesso potrei citarvi quello di Raise Venete, una bandiera, una lingua, una storia. Vada. Forza e gloria. Come fa? La musica mi prende un po' alla sprovvista, eh. No, ci provi, Panto. Non si prova. Non riesco a cantare, no. No, non ce la fa proprio, a cantare. Senta, però, mi faccia un appello in Veneto, perché io qui... voi, quando sarete indipendenti, no, in Veneto, sì, immagino che il Veneto diventerà il dialetto, la lingua, anzi, scusi per il dialetto, diventerà ufficiale. Cioè, voi sostituirete l'italiano col Veneto o no? Beh, o non ci pensate proprio? Nessuna discriminazione, noi siamo contrari all'imposizione delle lingue. Vabbè, d'accordo, però ci sarà una lingua ufficiale, no? Uno Stato indipendente di solito c'ha lingua. Potrà restare lingua ufficiale l'italiano e sicuramente il Veneto potrà avere lo stesso status dell'italiano. E l'appello che fate me lo faccio in Veneto, a votare per la vostra lista. Lo sa sto Veneto o no, Panto? Certamente che lo so questo Veneto. mi faccio un appello in Veneto. Veneti, stavolta non stai a farvi fregare, votte Panto, votte Partito Nazionale Veneto. Vabbè, questo è italiano, ho capito pure io. Una cosa sulle tasse, come si fa a portare l'aliquota al 20%, l'aliquota 1. Mi faccio un bel discorso in Veneto, un minuto le do. Un bel discorso in Veneto? Sì, un minuto. Cosa dice nei comizi? Parlerà in Veneto ogni tanto, se li fai i comizi. Certamente. In pratica il discorso è questo, noi altri che avevamo una pressione fiscale che mi porta a spendere 70 miliardi di euro nei confronti dello Stato Italia, noi altri che avevamo la possibilità di abbassare la pressione fiscale a 55 miliardi e potremmo alzare la spesa pubblica e portarla guaivamente fino a 55, in questa maniera potremmo diminuire le imposte dirette del 15%, quelle indirette del 25%, i contributi sociali del 25%. E la tassazione globale diminuirla del 20%. Beh, questo è un po' un Veneto italianizzato, diciamo, non è proprio stretto, eh. Vabbè, Panto, ci accontentiamo. Grazie. 20:37, andiamo a Torino, Giovanni. Pronto? Dica. Buonasera, grazie per il collegamento. Dunque, io mi sto ascoltando, sì. Pronto? La sento. Io non Giovanni, sento, non sento nulla, ho capito, va bene. Allora continuo. Dunque, io voglio dire, io sono un cittadino di sinistra, nel senso che non mi considero elettore perché ho dei problemi a votare, però mi considero di sinistra. Che problemi ha a votare? Ho problemi a votare questi partiti che ci sono. Ah, ecco, no, pensavo avessi altri problemi. In questo senso qua. Dunque, io la cosa, se posso fare una battuta, insomma, a casa mia si dice, quando qualcuno canta così, si dice, ma ti piace cantare? Se quello dice sì, dice, allora impara, perché... A chi si riferisce? Alla Polverini? Alla Polverini, perché veramente c'è tutta questa vicenda, la cosa che mi tristisce di più è il povero Battisti che si rigira nella tomba. Che sono quello sicuro, però Giovanni, no? Uno ci prova anche lì. Vabbè, però ecco, così uno dopo si prende il parere positivo del giudice, perché il giudice l'ha sentito e ha detto, piuttosto che rischiamo di trovare la Sanremo, facciamolo andare a fare candidato. E invece Bonaiuti è meglio? No, per carità. Lo senta, Giovanni, poi mi dà un giudizio pure su Bonaiuti. Ma per quanto poi riguarda l'impedirgli il lavoro, io ricordo a lei, dottor Bracchino, una canzone di Battisti. Come può uno scoglio arginare il mare? Il mare, anche se non voglio. Beh, insomma, anche c'è la differenza che c'è fra discese e distese, perché poi a un certo punto ha detto discese invece di dire, cioè ha detto distese invece di dire, ma chi, la Polverini? Cioè, la Polverini, sì, ha sbagliato pure il testo, perché poi la discesa è una cosa che uno, se è al suo posto, dovrebbe anche sapere che cos'è, non confonderlo con la distesa, ecco, in questo senso qua. No, ma questa parte, queste battute, è ancora una piccola riflessione, diciamo, più seria fra virgolette. Ecco, io credo che questa cosa veramente sia la cosa che mi rattrista, ecco, diciamo, tutta questa vicenda è il fatto che si parli di questo, cioè voglio dire, ma no, non per lei, fa benissimo a fare questa trasmissione, non voglio dire questo, ma voglio dire, Bersani, sì. Io vorrei vivere in un paese di gentiluomini, cioè dove voglio dire, chi ha fatto la stupidaggine si cosparga al capo di cenere e dica che l'ha fatta. E ma qui se la prendono coi magistrati, però. Ma appunto non lo fanno, ma infatti, a parte uno che ha detto che si è dato del cretino, vabbè, insomma, mi sembra che è un episodio sporadico, no? Cioè, prima se la sono presa con i radicali perché hanno detto che si sono sdraiati, sì, hanno impedito, esatto, eccetera. Poi esatto, adesso con i magistrati, esatto, all'interno parte, delle sezioni elettorali che tramano contro la presentazione, no, ma, delle liste. Infatti, io da una parte mi aspetterei, come dire, qualcuno che si cospargia il capo di cenere e sta zitto, dall'altra parte un'opposizione che dica, cioè su una cosa formale, dica, cioè, no, non esiste che sia arresto al processo democratico in un paese perché c'è stato un vizio formale. Giovanni, lei non andrà a votare, ma sono tentato di darle ragione su questo qua, su questo dire, quadro. Mi sembra decisamente una cosa, voglio dire, sulla quale fa gentiluomini, sì. Quella cosa qual è? Che alla fine mi sembra che Bersani, cioè questa specie di sinistra, siccome ha paura tutte le volte, cioè alla fine deve, cioè ha paura di essere d'accordo col governo, dice lei. Cioè non è che ha paura di esserlo, è che in effetti quando non dovrebbe esserlo poi alla fine lo è, e poi invece fa le barricate su delle cose che secondo me sono veramente delle stupidaggini. Cioè voglio dire, non si può, cosa facciamo? Se alle elezioni in Lazio e in Lombardia non ci va il partito che sta al governo, ma come si fa? Giovanni, lei da un punto di vista, diciamo, della sostanza ha perfettamente ragione, non c'è dubbio che sia così, e sono d'accordo anche con lei sulle barricate dell'opposizione, facessero fare un provvedimento al governo poi magari lo criticheranno, però insomma bisogna cospargersi, come dice lei, il capo di cenere, eppure tanto bisogna cospargersi il capo di cenere, cioè bisogna ammettere i nostri si sono sbagliati, erano dentro il palazzo, quello sto parlando del Lazio naturalmente. In Lombardia, qui leggo dalla sentenza dall'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello, una delibera, guardi che è successo. Allora, mancanza del timbro tondo sui moduli 136, mancanza della data dell'autentica 121, mancanza luogo dell'autentica 229, mancanza qualifica autenticante 28, per un totale di sottoscrizioni invalide di numero 514. Talché, sottraendo tale numero da quello dei sottoscrittori dichiarati in sede di presentazione 3.935, la detta lista risulta sostenuta da un numero di sottoscrittori 3.421, inferiore al minimo di legge. Cioè qui siamo nel campo del dilettantismo più assoluto, no? No, ma è chiaro, ma dice qualcuno, anche funzionario, che ha fatto una stupidaggine sottovalutando la cosa, qualcuno vabbè, però voglio dire, da un punto di vista però della sostanza politica, cioè sta roba qua veramente, cioè una cosa che, cioè voglio dire, uno può dire vabbè, questi sono meno preparati, cioè hanno avuto un funzionario meno preparato, delle cose di nani, però voglio dire, non è che queste questioni non possono succedere a chiunque, voglio dire, io credo che, cioè poi se si risolverà, ecco, ma è un caso secondo lei che per esempio sono accadute, almeno al momento, solamente al PDL, sia nel Lazio che in Lombardia, cioè c'è stata una strategia magari per far venire fuori queste cose, una furbizia da parte dei ricorrenti, in questo caso soprattutto i radicali, secondo me? Non lo so, questo può pure darsi che qualcuno magari giochi anche su sti terreni. Io credo che i radicali, voglio dire, anche se non è che è una grandissima considerazione, però non credo che, non so se poi qualcuno dei radicali gioca su questi terreni, io non so, io personalmente penso che sarebbe molto più interessante in questa fase politica discutere, sì, cose che non si fa assolutamente, delle proposte politiche che hanno i partiti per governare le regioni, il territorio, le aree montane abbandonate, cose di competenza che sono cose di competenza regionale. Per esempio, Giovanni, non sento, queste questioni non se ne parla. Sì, non sento grandi, vabbè, adesso la campagna elettorale entrerà nel vivo, spero, ma non ci sono discussioni per esempio sulla cosa più importante che riguarda le regioni, che è la sanità, quanto si spende. Ieri Tremonti ha detto una cosa gravissima, oggi è stata ripresa anche poco dai giornali, cioè ha detto qui il Sud è in totale default, che significa che sostanzialmente le regioni sono fallite, e quando uno va al Sud, immagino intendesse un ministro oppure qualcuno dal suo nord, e incontra un amministratore, non si capisce se è di fronte un assessore o un camorrista, si rende conto, una frase è talmente grave che io oggi pensavo ci sarebbe stata una discussione su questo, invece no. Esatto, questi sono i problemi sui quali secondo me l'opposizione dovrebbe fare veramente il muro, non su questioni, voglio dire, di forma, sulle quali invece dovrebbe fare il signore, perché alla fine è giusto che si faccia così, insomma, mi sembra abbastanza. Su questioni di sanità io sono sostenitore della canapa terapeutica, ne approfitto, e le regioni dovrebbero avere il competenza su questa questione, non so se lei è informato di questo. Beh, insomma, adesso mi affronta un terreno complicato, sì. Non c'entra niente, però dire, però su questa questione, per esempio, appunto, sì, di quei terreni sui quali c'è tantissima gente afflitta da malattie gravi che aspetta che i farmaci derivati dalla canapa, e lei sa cosa succede, che il servizio sanitario deve importare questi farmaci dall'Olanda con dei costi altissimi, quando in Italia ci sono le possibilità perché le regioni paghino questi farmaci e addirittura si producono in Italia. Ma è interessante, riprenderemo questo discorso. La ringrazio, Giovanni, che chiamava da Torino. Giulio da Caserta, andiamo al sud. Buonasera. Dica. Ascolti, un in più intanto, altro, Berlusconi, intanto Berlusconi è salito al Quirinale per parlare con Napolitano. Tanto prima ha detto pure che la Polverini è che ride, tutto Giulio, bene. Perché ride, vabbè. Giulio? Che c'è da ridere? Che... No, niente da ridere su questo, per l'amor di Dio. No, no, guardi, perché magari c'è da ridere. Io l'ho votato Berlusconi, ci mancherebbe. In questa faccenda è l'unica forza che non c'entra niente. Però una curiosità, io non so se ho seguito bene. Sì. In Lombardia la Lega voleva presentare un loro candidato, forse normale. Nel Lazio la Polverini solitamente è sempre saputo che è DAN, mentre l'ex Forza Italia voleva candidare una sua persona. Ma insomma, nel Lazio in realtà la discussione è stata a un certo punto tra la Todini e la Polverini, sì, è vero, però non c'è stata grande battaglia. Alfredo, sì. Mi chiedo scusa, non ricordo. Milioni. Non lo vedo così uno sprovveduto, cioè dire vado un attimo a mangiare una cosa, un quarto d'ora, poi non presento le liste, eccetera. No, ma lì c'è la ricostruzione più attendibile. Mi scusi, adesso devo mandare il traffico, poi torno con lei. La ricostruzione più attendibile è che ci sia stato proprio un pasticcio nella. C'erano tre liste, una di Alemanno, l'altra da non so di chi, degli ex di Forza Italia, e l'altra ancora di un'altra corrente. L'unico modo per sperare di vincere è di correre da sola. Ecco, ma allora non perché? Riuscirebbe a vincere neanche se corresse da sola. Allora, perderebbe contro Lotito, ministro, come dice la battuta. Allora, io ancora devo chiarire questa vicenda di Lotito. Perderebbe anche con Lotito, cioè la sinistra, intende la russa, come dice la battuta. Perché c'è una battuta su Lotito, candidato nel Lazio, che batterebbe la sinistra. Non lo sapevo, devo chiarirlo assolutamente. Prima o poi con lo stesso... Lotito, se ci concede una presenza qui alla Zanzara. Intanto 800 24 00 24. Marco da Roma, anzi no, eravamo con chi era? Antonio, eccoci qui. Giulio, mi scusi. Sì, salve. Scusi, ci sono un sacco di ascoltatori. Prego, ci mancherebbe. Non vedo questo Alfredo Milioni molto sprovveduto, quindi probabilmente sembrerebbe una cosa organizzata per non far andare alle prime elezioni, e poi dopo si sono messi d'accordo in qualche modo la Polverini, anche se prima lei ha detto che il tutto è andato a buon fine. Sì. E poi, insomma, a parte questo, lei che fa una trasmissione politica da tanto tanto tempo, era più un consiglio che le chiedevo che altro. Cioè? E poi, no, secondo lei ho detto una cosa errata? O a proposito di che? Così, dei contrasti interni? Sia in Lombardia, tra... No, in Lombardia non credo, anche se probabilmente non c'è stata una grande collaborazione nella raccolta delle firme. Poi io il listino di Formigoni, probabilmente ci devono essere un misto di firme, diciamo, leghiste del PDL. Ma sentiamo lo stesso Formigoni, Tele Lombardia, in questo momento. Con Agnoletto mi è stato risposto dal detto stampa, capo ufficio stampa, che non era assolutamente interessato a parlare con Agnoletto. Agnoletto ha passato una serata dicendo che Penati non lo vuole incontrare, e allora ci avrà ragione Agnoletto, non lo so. Insomma, in qualche modo vedremo di far venire il candidato del PD. Comunque, cos'è che è la storia? Ripetiamola, perché non ho capito bene, magari lo sentono anche i nostri telespettatori. La presenza per oltre 30 minuti del candidato presidente del Popolo della Libertà. Vabbè, si parla di par condicio, come sapete c'è questo calcolo minuto per minuto di ogni cosa. Formigoni, sentiamo. 15 giorni fa è andato a Matrix a parlare di non so che cosa senza avere me in confronto. Io non ho mica denunciato Matrix, voglio dire, bisogna sapere. Alla fine si tirano le somme della parcondicio. No, anche perché non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma se abbiamo detto 2 minuti fa che ci sarà questo consiglio dei ministri, probabilmente le elezioni verranno rimandate, il conto della parcondicio è ancora più lungo, e quindi ci sarà tutto il modo per avere anche il candidato Filippo Penati alla nostra trasmissione. Intanto ci becchiamo anche questa, ma noi andiamo avanti. Formigoni, le ho fatto questa domanda: ha mai avuto la sensazione un attimo di non essere, insomma, in gara veramente? Lei stasera mi ha detto che è tutto a posto. Allora, io sono sempre stato certo degli atti compiuti innanzitutto da me. Vabbè, il discorso si fa lungo, la versione di Formigoni, però avete sentito il conduttore della trasmissione su Tele Lombardia che dice si va verso un Consiglio dei Ministri con le elezioni che potrebbero essere rimandate. Sarebbe una follia assoluta, follia totale. Allora, Riccardo da Roma. Sì, buonasera dottor Cruciani. Buonasera a tutti i radio ascoltatori di Radio 24. Dica. Io volevo fare una premessa, non sono un elettore di centrodestra e sinceramente mi dispiace che le elezioni vengano passate per questo intoppo delle liste. Però quello che vorrei fare è un appello a tutti gli elettori di centrodestra sul senso di responsabilità. Cioè? Quello che a me mi ha colpito molto non è tanto il fatto in sé, ma la reazione. La reazione da parte del PDL, insomma. In particolare di La Russa l'altra volta al TG3. Quello che io noto è che è chiaramente insomma, quello che stanno cercando di fare, di mandare le elezioni, piuttosto che fare una leggina apposta per risolvere il problema. Cioè, il problema di questo orientamento politico è che non si assumono le responsabilità dei loro atti, e questo secondo me è gravissimo. E mi ricollego all'intervento del signore di prima della Lega, militante della Lega, che dice se fanno la legge io non li voto. Io propongo una riflessione a tutti gli elettori del centrodestra su questa cosa qua, la responsabilità di questa gente. No, ma è una riflessione interessante, Riccardo. È che nessuno si, al di là poi delle singole, ripeto, di quello che è accaduto nel concreto, se ci sia stato davvero io non ci credo, un complotto come fa intendere Formigoni oggi per non un attacco al PDL in Lombardia e forse anche nel Lazio per impedire le candidature, però questo è difficile da accertare, diciamo, non è che possiamo metterci indagare su questa cosa. Arrivo al limite ridicolo, nel senso canta che ti passa, nel senso in questo caso mettiamo le nostre colpe, per cui cioè, io vorrei sensibilizzare tutti gli elettori di centrodestra e di centrosinistra sul fatto che se questa gente sbaglia e non riconosce i loro sbagli anche su un cavillo legislativo, sì, questa gente può sbagliare anche nelle loro case. Ma non ci voleva in realtà questa vicenda per capire che tutti noi siamo falliti, per capire se tutti noi siamo fallibili. È stata vergognosa, cioè, sì, no, ma la reazione, la reazione non ha senso, è ridicola come dice lei, e soprattutto nessuno che dice vabbè, insomma, forse abbiamo commesso qualche errore. Per una grazie. Volta mi trovo d'accordo con Casini. Grazie. C'è grazie. Un'altra questione che mi piacerebbe sollevare. Sì, però è tardi, Riccardo, che dobbiamo fare? Mi permetta soltanto una questione. Sì. Questo decreto legislativo che stanno facendo per modificare l'articolo 18, di cui purtroppo... Lo so, ma se ne occupa Barisoni, io che cosa le posso dire, Riccardo? Devo dire... Come dire, è un atteggiamento pericoloso. Non credo che siamo di fronte a cose pericolose. Marco, sempre da Roma, 30 secondi, poi devo chiudere. Buonasera a tutti. Buonasera, dottor Cruciani. Io volevo solamente focalizzare l'attenzione sulle elezioni regionali del Lazio e dire che, a prescindere da come andrà questa storia, a prescindere se ci saranno leggi leggine, se verrà messa la lista o no, ci sono due punti fermi. Uno, che il PDL deve partecipare, altrimenti c'è una carenza di democrazia. Il secondo, che qualcuno nel Partito del Popolo della Libertà a Roma non ha ancora pagato a livello di vertici dirigenziali. Sono più che un elettore del Popolo della Libertà. E che cos'è lei? È un amministratore locale. Allora Marco, ci risentiamo domani con calma, se vuole, così vediamo anche l'evolversi della situazione e se davvero ci sarà questo decreto legge. Vi lascio con la canzone, proprio così, con la canzone del giorno, by Renata Polverini. Tanto la canzone la conoscete tutti, e allora cominciamo. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare le distese azzurre, io non c'ho voce, e le verdi terre, le distese ardite e le risalite, e nel cielo aperto e poi sul deserto, con un grande salto, La Zanzara.